Luca assisti già lucenti e ha fatto tanti giri grazie in un secondo. La grazia sulla culo corri di circamo, qui tutta gente che patisce andalo mondo. Vi voglio unirci che da noi stanno lontano e con le mani all'aria morano di fami. Guarda lì Luca si regini si potenti, non li fa stare la miseria così brutta. Oi Madonna, tu pitti rutu, una di sempre, tu tu aiuto. Oi Madonna, Madonna bella, tu brilli in cielo, più di una stella. Oi Madonna, Madonna bella bella, vi tutti chiri caso sulla questo mondo. Picchiri che hanno perso tutto dalla guerra e a chi ti cercano un lucino notte e giorno. I figli nostri cosa ancora così ninni, per tutti chiri che lontano se ne vanno. Non ci fa perdere la speranza per la via, guarda lì tu questo occhio tua Madonna mia. Oi Madonna, Madonna mia, non mi fa perdere la giusta via. Oi Madonna, sti traducenti, tu sia regina.